Capitolo 131. La nona fatica, la cintura di Ippolita. Nona fatica di Eracle fu di portare ad Admeta, la figlia di Euristeo, l'aurea cintura di Are usata da Ippolita, regina delle Amazzoni. Partito su una nave, o altri dicono con una flotta di 9 navi, in compagnia di volontari, tra i quali erano Iolao, Telamone di Egina, Peleo di Iolco e forse anche Teseo di Atene, Eracle salpò per il fiume Termodonte. Le Amazzoni erano figlie di Are e della Naiade Armonia, nate nelle segrete valli della Frigia Acmonia, ma altri dicono che loro madre fu Afrodite oppure Otrera, figlia di Are. Dapprima vissero lungo le rive del fiume Amazzonia, ora chiamato Tanai dal nome del figlio dell'Amazzone Lisippa, che offese Afrodite col suo disprezzo per il matrimonio e il suo amore per la guerra. Smaniosa di vendicarsi, Afrodite fece sì che Tanai si innamorasse di sua madre, ma piuttosto che cedere a quell'incestuosa passione, egli si gettò nel fiume e annegò. Per sfuggire alla sua ombra lamentosa, Lisippa allora guidò le sue figlie lungo le rive del Mar Nero fino alla pianura bagnata dal Termodonte che nasce dagli altissimi monti amazzoni. Colà esse si divisero in 3 tribù e ogni tribù fondò una città. Allora, come oggi, le amazzoni ammettevano soltanto la discendenza matrilineare e Lisippa stabilì che agli uomini toccasse di sbrigare le faccende domestiche mentre le donne combattevano e governavano. Venivano perciò fratturate le gambe e le braccia dei bambini perché non fossero poi in grado di viaggiare o battersi in guerra. Queste donne anormali che gli sciti chiamano Eorpata non rispettavano né la giustizia né il pudore, ma erano guerriere stupende e per prime usarono la cavalleria. Avevano archi di bronzo e piccoli scudi a forma di mezzaluna. I loro elmi, le loro vesti e le loro cinture erano fatti con le pelli di animali feroci. Lisippa, prima di morire in battaglia, fondò la grande città di Temiscira e sconfisse tutte le tribù nemiche fino al fiume Tanai. Con il bottino delle sue vittorie innalzò templi ad Are e ad Artemide e Tauropolo, di cui diffuse il culto. Le sue discendenti estesero a occidente l'impero delle Amazzoni, oltre il fiume Tanai, fino alla Tracia e più a sud, oltre il fiume Termodonte, fino alla Frigia. 3 famose regine delle Amazzoni, Marpesia, Lampada e Ippo, si impadronirono di gran parte dell'Asia Minore e della Siria e fondarono le città di Efeso, Smirne, Cirene e Mirina. Altre città fondate dalle Amazzoni sono Tiba e Sinope. A Efeso innalzarono un simulacro ad Artemide sotto un faggio e Ippo le offrì sacrifici. Poi le sue seguaci eseguirono la danza degli scudi e un'altra danza tutte in cerchio, agitandosi e battendo il suolo coi piedi all'unisono, al suono di zufoli, poiché Atena non aveva ancora inventato il flauto. Il tempio di Artemide Efesia, costruito poi attorno a questo simulacro e di una magnificenza tale che non può essere eguagliata nemmeno da quella del Tempio Apollineo a Delfi, è considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Lo circondano 2 rivi, ambedue chiamati Selenoe, che scorrono in opposte direzioni. Fu nel corso di quella spedizione che le Amazzoni invasero la terra di Troia quando Priamo era ancora bambino. Ma mentre una parte dell'esercito delle Amazzoni ritornava in patria con il ricco bottino, le truppe rimaste per consolidare il dominio sull'Asia Minore furono sopraffatte da alcune tribù barbare e perdettero la loro regina Marpesia. Al tempo in cui Eracle visitò le Amazzoni, esse erano tutte ritornate sulle rive del fiume Termodonte e le loro città erano governate da Ippolita, Antiope e Melanippa. Nel corso del viaggio Eracle si fermò all'isola di Paro, famosa per il suo marmo che il re Radamanto aveva lasciato in eredità un certo Alceo, figlio di Androgeo. Ma vi si erano stabiliti anche 4 dei figli di Minosse, Eurimedonte, Crise, Nefalione e Filolao. Un paio degli uomini di Eracle, scesi a terra per far provvista d'acqua, furono assassinati da uno dei figli di Minosse e l'eroe, allora furibondo, li uccise tutti e 4 e minacciò i pari con tanta violenza che si proposero di scegliersi nell'isola 2 uomini che lo servissero come schiavi in cambio dei 2 marinai periti. Soddisfatto da quella proposta, Eracle scelse re Alceo e suo fratello Stenelo e li prese a bordo della sua nave. Poi navigò attraverso l'Ellesponto e il Bosforo fino a Mariandine, nella Misia, dove fu ospitato dal re Lico di Paflagonia, figlio di Dascilo e nipote di Tantalo. In cambio diede il suo appoggio a Lico nella guerra contro i Bebrici e uccise molti di loro, compreso il re Migdone, fratello di Amico. Riconquistò ai Bebrici gran parte della terra di Paflagonia e la restituì a Lico, che la chiamò Eraclea in suo onore. In seguito l'Eraclea fu colonizzata dai Megaresi e dai Tanagresi per consiglio della Pizia di Delfi, che disse loro di fondare una colonia sulle rive del Mar Nero, in una regione sacra a Eracle. Arrivato alla foce del fiume Termodonte, Eracle gettò l'ancora nel porto di Temiscira, dove Ippolita gli fece visita e, attratta dal suo corpo muscoloso, gli offrì la cintura di Are come pegno d'amore. Frattanto Era, travestita da Amazzone, girava per la città spargendo la voce che gli stranieri avevano intenzione di rapire Ippolita, a che le indignate guerriere balzarono a cavallo e si lanciarono all'assalto della nave. Eracle, che sospettò un tradimento, uccise Ippolita seduta stante, le sfilò la cintura, si impadronì della sua ascia e di altre armi e si preparò a difendersi. Uccise a una le Amazzoni che guidavano le attaccanti e infine mise il loro esercito in rotta dopo grandissima strage. Altri tuttavia dicono che Melanippa era stata fatta prigioniera in un'imboscata riscattata da Ippolita con la sua cintura o viceversa, oppure che Teseo catturò Ippolita e donò la cintura a Eracle, che in cambio gli concesse di fare di Antiope la sua schiava, oppure che Ippolita rifiutò di consegnare la cintura a Eracle e che lottarono aspramente tra loro. Ippolita cadde dal suo cavallo ed Eracle, ritto su di lei, con la clava in mano, si dichiarò disposto a concederle grazia, ma Ippolita preferì morire piuttosto che arrendersi. Si dice anche che la cintura appartenesse alla figlia del centimane Briareo. Al suo ritorno da Temiscira, Eracle sostò di nuovo a Mariandine, dove partecipò ai giochi funebri in onore del fratello di re Lico, Priola, che era stato ucciso da Misi. In suo onore si cantano ancora oggi canti funebri. Eracle si batté con Tizia, campione dei Mariandini, in una gara di pugilato. Gli spaccò tutti i denti e poi lo uccise involontariamente con un pugno alla tempia. Spiacente per l'accaduto, combatté allora vittoriosamente contro i Misi e i Frigi in nome di Dascilo. Respinse anche i Bitini fino alla foce del fiume Reba e le più alte pendici del monte Colone e si aggiudicò il loro regno. I Paflagoni di Pelope, invece, gli si arresero volontariamente. Ma non appena Eracle fu partito, i Bebrici, guidati da Amico, figlio di Posidone, si impadronirono di nuovo della terra di Lico, portando i loro confini fino alle rive del fiume Ipio. Eracle veleggiò poi verso Troia e salvò Esione da un mostro marino. Continuò il suo viaggio fino a Eno, in Tracia, dove fu ospitato da Poltide e, mentre era sul punto di riprendere il mare, uccise con una freccia sul Lido Eneo l'insolente fratello di Poltide, Sarpedone, figlio di Posidone. In seguito soggiogò i Traci, che si erano stabiliti a Taso, e affidò l'isola ad Androgeo, che aveva portato con sé da Paro. A Torone fu sfidato a una gara di lotta da Poligono e Telegono, figli di Proteo. Li uccise tutti e due. Giunto infine a Micene, Eracle consegnò la cintura a Euristeo, che la donò ad Admeta. Per quanto riguarda il resto del bottino carpito alle Amazzoni, Eracle offrì le loro ricche vesti al tempio di Apollo a Delfi e l'ascia di Ippolita alla regina Onfale, che la serbò nel tesoro dei re Lidi. In seguito fu portata nel tempio Cario di Zeus, Labradio, e posta nelle mani del suo divino simulacro. Le Amazzoni vivono ancora in Albania presso la Colchide, perché furono scacciate da Temiscira assieme ai loro vicini, i Gargarensi. Rifugiatisi sulle montagne albanesi, due popoli si separarono. Le Amazzoni si stabilirono ai piedi del Caucaso, lungo le rive del fiume Mermoda, i Gargarensi più a nord. In un giorno stabilito, a ogni primavera, le giovani Amazzoni e i giovani Gargarensi si ritrovano sulla sommità di una montagna che separa i due territori e, dopo aver sacrificato agli dei, trascorrono due mesi assieme, abbandonandosi a promiscui amplessi col favore della notte. Non appena un amazzone si accorge di essere incinta, ritorna a casa. Tra i piccoli nati, le femmine diventano amazzoni e i maschi vengono affidati ai Gargarensi, i quali, non potendo stabilirne con esattezza la paternità, li distribuiscono come capita nelle varie capanne. In tempi recenti la regina Minizia abbandonò la sua corte albanese per incontrarsi con Alessandro Magno nell'Ircania, infestata da tigri. Colà godette della sua compagnia per 13 giorni, sperando di avere un figlio, ma morì poco dopo senza prole. Queste amazzoni del Mar Nero non vanno confuse con le alleate libiche di Dioniso, che un tempo abitarono in Espera, un'isola del lago Tritonide così ricca di alberi da frutto e di greggi che non era necessario coltivarvi il grano. Dopo aver conquistato tutte le città dell'isola, salvo la sacra Mene, patria degli etiopi, divoratori di pesce, che estraevano dalle miniere smeraldi, rubini, topazi e calcedonio, sconfissero i loro vicini libici e nomadi e fondarono la grande città di Chersoneso, così chiamata perché sorgeva su una penisola. Da questa base attaccarono gli Atlanzi, il popolo più civile a occidente del Nilo, che ha la sua capitale nell'isola atlantica di Cerne. Mirina, regina delle Amazzoni, radunò un esercito di 30.000 cavalieri e 3.000 fanti. Tutte portavano archi e quando erano costrette a battere in ritirata se ne servivano per scoccare contro i loro inseguitori frecce infallibili. Indossavano armature fatte con la pelle dei serpenti libici di incredibili proporzioni. Invaso il territorio degli Atlanzi, Mirina inflisse loro una irrimediabile sconfitta. Poi sboccò a Cerne, conquistò la città, passò gli uomini a fil di spada, fece schiave le donne e rase al suolo le mura. Quando gli Atlanzi superstiti acconsentirono ad arrendersi, li trattò con nobiltà e per compensarli della perdita di Cerne costruì la nuova città di Mirina, dove si stabilirono i prigionieri e chiunque altro desiderasse viverci. Gli Atlanzi le tributarono allora onori divini e Mirina consentì a proteggerli dalla vicina tribù dei Gorgoni. Molti ne uccise in una furibonda battaglia e inoltre catturò non meno di 3.000 prigionieri. La notte, tuttavia, mentre le Amazzoni banchettavano per festeggiare la vittoria, i prigionieri rubarono le loro spade e, a un segnale convenuto, il grosso dell'esercito Gorgonia, che si era radunato in un vicino bosco di querce, dilagò da ogni parte per massacrare i seguaci di Mirina. Mirina riuscì a fuggire. Le sue compagne morte giacciono sotto 3 grandi tumuli che sono ancora oggi chiamati tombe delle Amazzoni e dopo aver attraversato gran parte della Libia entrò in Egitto con un nuovo esercito. Si alleò al re Oro, figlio di Iside, e passò a invadere l'Arabia. Taluni dicono che queste Amazzoni libiche e non le Amazzoni del Mar Nero conquistarono l'Asia Minore e che Mirina, dopo aver scelto la sede che più le garbava nel suo nuovo impero, fondò molte città costiere, comprese Mirina, Cima, Pitana, Priene e altre ancora nell'entroterra. Conquistò anche molte isole egee, fra cui Lesbo, dove costruì la città di Mitilene, così chiamata dal nome di sua sorella, che partecipò alla campagna. Mentre Mirina era ancora impegnata nella conquista delle isole, una tempesta si abbatté sulla sua flotta, ma la madre degli dei guidò le navi sane e salve fino a Samotracia, allora disabitata, che Mirina le consacrò, innalzando altari e offrendo splendidi sacrifici. Mirina si recò poi nella Tracia continentale, dove il re Mopso e il suo alleato, lo scita Sipilo, la sconfissero in leale combattimento e Mirina fu uccisa. L'esercito delle Amazzoni non riuscì più a riprendersi dopo tale rovescio. Sconfitte dai traci in frequenti scaramucce, le superstiti si ritirarono infine in Libia. Se Admeta era il nome della principessa per cui Eracle compì tutte le prove impostegli prima delle nozze, scioglierle la cintura nella camera nuziale doveva segnare la fine delle sue fatiche, ma prima di arrendersi probabilmente Admeta lottò con l'eroe, come fece Ippolita, e come Pentesilea lottò con Achille o Teti con Peleo. E così si spiega perché esse siano citate in questa leggenda. In tal caso, Admeta subì probabilmente le consuete metamorfosi, il che ci fa supporre che l'idra seppia fosse Admeta, il serpente custode del tesoro che Eracle sopraffece come l'Adone, e che si sia anche trasformata in granchio, in cerva, in cavalla selvaggia e in una nuvola, prima che Eracle riuscisse a vincere la sua verginità. La tradizione delle sacerdotesse armate era ancora viva in Efeso e in altre città dell'Asia Minore. Ma i mitografi greci, scordatisi che collegi esistevano anche ad Atene e in altre città della Grecia stessa, spedirono Eracle alla ricerca della cintura di Ippolita fino presso il Mar Nero, dove erano ancora attive le tribù matriarcali. La suddivisione in 3 tribù era la regola nella società matriarcale, che la cintura potesse appartenere alla figlia di Briareo, Forte, uno degli eroi centimani, indica che la leggenda delle prove nuziali nacque anticamente nella Grecia settentrionale. Admeta è uno dei tanti nomi di Atena, che le raffigurazioni probabilmente mostravano ritta e armata nell'atto di osservare Eracle mentre compiva le sue fatiche e pronta ad aiutarlo quando si trovava in difficoltà. Atena era anche Neith, la dea libica dell'amore e della battaglia. In Asia Minore la sua controfigura era la grande dea della luna Marian, Mirina ai mari, Marianne o Marienna, che diede il suo nome a Mariandine, duna di Marian, e a Mirina, la città dei Lemni ginocratici, e che i troiani onoravano come la Mirina balzante. Smirna è ancora Mirina, preceduta da un articolo determinativo. Marienna, sua forma sumerica, significa madre ricca di frutti, e l'Artemide di Efeso era una dea della fertilità. La leggenda dice che Mirina fu colta in mare da una tempesta e salvata dalla madre degli dei, cui eresse degli altari a Samotracia, perché era essa stessa la madre degli dei e i suoi riti salvavano i marinai dai naufragi. Una dea madre analoga era anticamente adorata in Tracia, nella regione del fiume Tanai, Don, in Armenia, nell'Asia Minore e in Siria. La spedizione di Teseo in Amazzonia, un mito che si modella su quello di Eracle, ha uno scopo oscuro e indusse i mitografi a inventare la fittizia invasione di Atene da parte delle Amazzoni alleate agli Sciti. Che le Amazzoni innalzassero un simulacro all'ombra di un faggio efesio è un errore commesso da Callimaco, il quale, essendo egiziano, non sapeva che i faggi non crescono così a sud. Probabilmente si trattava di una palma da datteri, simbolo della fertilità, e che ricordava l'origine libica della dea, poiché la sua statua era adorna di grandi datteri dorati, spesso scambiati per mammelle. La disfatta delle Amazzoni, a opera di Mopso, adombra la storia degli Ittiti sconfitti dai maschi nel 1200 a.C. Presso gli Ittiti vigeva il patriarcato, ma a contatto con le società matriarcali dell'Asia Minore e di Babilonia, essi finirono con l'accettare il culto della dea madre. Ad Attusas, la loro capitale, è stato recentemente scoperto da Garstang un bassorilievo che mostra la dea della guerra, e sempre secondo Garstang il culto di Artemide e Efesia è un culto di origine ittita. Le vittorie ottenute sulle Amazzoni da Eracle, Teseo, Dioniso, Mopso e altri indicano il regresso del sistema matriarcale in Grecia, in Asia Minore, in Tracia e in Siria. Stefano di Bisanzio cita l'ipotesi che Paro fosse una colonia cretese. La spedizione di Eracle a Paro ricorda un'invasione ellenica dell'isola. La leggenda che Eracle affidasse Taso ai figli di Androgeo si riferisce alla conquista della città compiuta da un gruppo di pari, citata da Tucidide. L'evento si verificò verso la fine dell'VIII secolo prima di Cristo. Gli Eubei colonizzarono Torone pressappoco alla stessa epoca, e Torone, regina che strilla, veniva considerata figlia di Proteo. La vipenne, labris di Ippolita, non fu tuttavia posta nelle mani di Zeus Lambrandio, il luogo delle folgori, poiché essa era già una folgore in sé, e Zeus se ne insignì col permesso della dea cretese che imperava sulla Libia. I gargarensi sono i gogoreni, che Ezechiele chiama Gog. Parlandoci di Mirina, Diodoro Siculo cita antiche tradizioni libiche che avevano già acquistato carattere di favole. È accertato però che nel terzo millennio prima di Cristo i migranti neolitici lasciarono la Libia e si sparsero in tutte le direzioni, fuggendo probabilmente una inondazione che allagò i loro campi. Il delta del Nilo era abitato soprattutto da libici. Secondo Apollonio Rodio, Tizia era uno dei tre dattili, dita, idei, che amministrano la morte. Apollonio cita anche il nome di un altro dattilo, Cillenio. Ho già dimostrato che nella tradizione magica delle dita Tizia di Dattilo rappresentava il medio, che Cillenio, alias Eracle, era il pollice, e che Dascilo, il terzo dattilo, era l'indice, come è implicito nel suo nome. Queste tre dita alzate, mentre l'anulare e il mignolo si ripiegavano, erano il segno della benedizione frigia. Data un tempo in nome di Mirina, questa benedizione è ora somministrata dai preti cattolici in nome della Santissima Trinità. Il Tizio, ucciso da Apollo, è forse un doppione di Tizia. La conquista di Cerne da parte di Mirina pare una tarda e non autorizzata giunta alla leggenda. Cerne è stata identificata con Fedallà presso Fez, oppure con Santa Cruz presso Capo Ghir, oppure, ed è l'ipotesi più plausibile, con Arguin a sud di Capo Bianco. Fu scoperta e colonizzata dal cartaginese Annone, che la descrisse distante dalle colonne di Eracle quanto le stesse colonne distano da Cartagine e divenne il più grande mercato dell'Africa occidentale. Fin qui l'analisi degli elementi mitici della nona fatica. Tuttavia la spedizione di Eracle al Termodonte e le sue guerre in Misia e in Frigia non si possono considerare del tutto prive di fondamento storico. Come il viaggio della nave Argo, queste leggende si ricollegano alle avventurose vicende di mercanti greci nel Mar Nero verso la metà del secondo millennio prima di Cristo. E l'intrusione di mini da Iolco, di acidi da Egina e di argivi in quelle acque ci fa pensare che, per quanto Elena fosse avvenente, non furono i suoi begli occhi, ma gli interessi commerciali a indurre migliaia di navi a partire per Troia. Achille, figlio di Peleo, Aiace, figlio di Telamone, e Diomede, l'argivo, erano, tra gli alleati greci di Agamennone, i più decisi a strappare a Priamo il permesso di passare liberamente per l'Ellesponto, come già avevano fatto i loro padri, a meno che Priamo non volesse vedere la sua città messa a ferro e a fuoco, come era accaduto alla città di Laomedonte, e per la stessa ragione. Ecco perché i dubbiosi ateniesi sostengono di essere stati rappresentati da Teseo nella spedizione di Eracle, da Falero nel viaggio dell'Argo e da Menesteo, Demofoonte e Acamante nella guerra di Troia. Volevano così giustificare quel controllo sui mercati del Mar Nero che, dopo la distruzione di Troia e la decadenza di Rodi, era passato nelle loro mani.